se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Parole, parole di che, cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su! Come fa il signore che ha la macelleria ed è contento di avere un coltello che a me ricorda tantissimo l'Isis. Quel coltello affilato ricorda esattamente le persone che sgozzano come gli schiavi. Shots of patrol and it's on, girl. Una scaloppina di vitello cucinata bene mi emoziona molto di più degli occhi di un vitellino. Non sono i pochi, Dan. Non voglio essere partecipe dell'assassinio, del massacro sistematico di animali innocenti. E domani girerò un bello spot e dico: buona Pasqua a tutti, godetevi l'agnello e non ci facciamo tutte ste menate, perché i problemi degli italiani sono altri. Oh, devo dire questa cosa pesante. Meno male che è arrivata la Santanchè a portare un pochino di sobrietà in questo impazzimento. Cosa hai combinato, Berlusconi, a dare il biberon agli agnellini? Hai rilanciato questa follia. Per cui adesso uno paragona un macellaio a uno dell'Isis. Oggi scenderò dal signor Bottani, che è il macellaio sotto casa mia in Viale Monza, e gli dico: signor Bottani, si sente un po' paragonabile a Jihadi John, non so, quello che sgozzava, uno dell'Isis, si sente paragonato, cosa prova a sentirsi paragonato, signor Bottani, a un criminale che uccide infedeli? No, così voglio, così far due chiacchiere, bisogna scendere dal quartiere, parlare nei bar. L'Italia di oggi è veramente un grande circo equestre. Bravo, presidente! La conduzione 4.0 a Vincenzo De Luca ormai è cosa quasi fatta. A volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano. Dove gli stipendi peraltro lì sono alti, caro presidente. Si sa che insomma lei ci tiene. Insomma, 13.000 euro netti al mese. Oh, secchi! Che spettacolo, che spettacolo. Tra contro cross, si avvicina Dybala, Cuadrado, vuole andare nel dribbling, ecco Dybala, si gira, prova il tiro, rete! Beh, devo dire che spettacolo anche la Juve, quando ci vuole, ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Effettivamente, grande, grande partita della Juve, niente da dire. Anche Dybala, adesso ha vinto 3-0, me devi far sentire tutti e tre. Anche tu come il coltello del macellaio mi vuoi infierire, non so. Vabbè, dai. Su. Lungo dall'altra parte, colpo di testa. Allora fa un po'. Peter Bescapè, basta. Basta. Bravi, ma basta. Che spettacolo. Vabbè. Peter Bescapè, regia, Lorenzo Nespoli, redazione. Signori, ci sono a Cernusco sul Naviglio 14 gradi. E ho già preso il carré di agnello per Pasqua. Salvatore, fai il bravo anche tu. Fai il bravo. 13 gradi a Paratico, 13 gradi a Rimini. E poi Jersey City, 18 gradi, ci stanno ascoltando Leonardo, grande Leonardo da Jersey City. A Orte 10 gradi e mezzo, Bogdan da Viterbo. A Varese 14 gradi. Cappelle sul Tavo, 12 gradi. Per favore, Lorenzo, Cappelle sul Tavo. Lorenzo? Ah sì, ti sei spostato di lì, perché oggi dovete capire che è saltata la corrente qui a Radio 24 e tutto il Sole 24. Siamo in le luci di Cappelle sul Tavo, Pescara, vero? Ci sono, non lo so, 12 gradi. A Gallicano, sì, è confermi, lo so, me l'ha già detto l'ascoltatore che è Pescara, quindi esiste, va bene. 10 gradi ad Agazzano, domenico. E signori, a Rio de Janeiro, 25 gradi. Ci stanno ascoltando. Basta, anche da lì, solitario. Cara Paola Saluzzi, che bello che sei tornata. Buongiorno. Ecco che con la nuova stagione... Addio Fabio Massimo a Roma, 11 gradi. 11 gradi, fantastico. Abbiamo iniziato questa cosa che Mauro Corona odia tantissimo. La scorsa settimana era qua ospite in studio alle 6.30, gli ho fatto leggere due temperature e Mauro Corona era un po' così, Però è tornata. È un po' basito, vi seguo. È tornata Paola Saluzzi, ben che bello trovato. È la notizia più bella del giorno per me, è tornata Paola Saluzzi. Vuoi sapere da quanto tempo a casa mia non si mangia agnello a Pasqua? Attenzione, da quanto? Dall'anno scorso? Dal 1998. Ah, quindi poi tu... Poi ho attaccato il pollo alla cacciatore, ho detto no, ma io questo non lo mangio. Poi ho attaccato la carne di vitello, sì. Ho fatto in modo lentamente, lento pede, con massimo rispetto, sì, per tutti, anche io lentamente, di pensare senza guerra che per vivere bene non ci sia bisogno che altri muoiano. Certo, no? ma tu dici, vedi, per bene, senza me. Guerra, cioè tu non andresti mai a dire a un macellaio che sembra uno dell'ISIS, no? Cioè, no, non entro a comprare i suoi prodotti, va bene. Ma con molto rispetto, va bene, per carità. No, se però vedo che la gente sfotte perché uno non mangia l'agnello a Pasqua, allora lì uno può rispondere. No, no, ma questo sì, massima libertà, ma uno fa infatti... No, l'ISIS adesso lo lascerei esatto. A situazione... Di fatto trovo una crudeltà folle mangiare gli animali. Oh, Paola Saluzzi, evviva! Allora ti presento il super mega nostro dir. Stavo dicendo Paola Saluzzi. Eccola. Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno, ciao direttore. Luca. Buongiorno. Tu? Buongiorno, ciao Paola. Hai visto che te l'abbiamo riportata. Dichiarati, Luca, tu? Io lo mangio, devo dire. Lo mangi un po'? Lo mangio ancora. Capisco Paola e la trovo anche una scelta civile. Trovo civile appunto rispettare chi lo mangia e chi non lo mangia. Però dici io sono incivile, quindi lo mangio. No, io non sono incivile, però devo dire che per me... bisognerebbe ricordare, è giusto, cioè bisognerebbe sapere sempre che meno cose uccidi e meglio è. No, ma su questo vale, sì. Vale per i cani, i gatti, gli agnelli, forse anche per le zanzare, voglio dire. Sì, ma io dopo lì entra in campo, vedi? Entra in campo, bravissimo direttore. La zanzara la fai secca? Non lo so, infatti mi sono svegliato con un primo bozzo di zanzara stamattina e se la trovavo vi assicuro che insomma non faceva una bella fine. No, però esatto, la cifra giusta è l'equilibrio, ma ci vorrebbe un po' di equilibrio in tutte le cose. Ma tra l'altro anch'io sono di quelli che con gli anni sto riducendo sempre più il consumo di carne, ma perché sto meglio così? Cioè, nel senso, è una questione, sto meglio, il mio fisico sta meglio e punto. Cioè, ma col massimo rispetto, quando la voglio raramente la mangio, quando no e punto, insomma. C'è quella cosa bellissima che fanno i monaci buddisti che se non sbaglio benedicono le pantofole praticamente chiedendo scusa per gli animalini che ammazzeranno camminando semplicemente perché senza farlo apposta. Vabbè, signori, la verità è che Berlusconi ci ha portato qui. Grandioso. Signori, io non volevo tragicizzare adesso il momento, ma io mi sono svegliato oggi c'è una straordinaria amaca di Michele Serra che inizia così, dopo la leggerò tutta in rassegna stampa. Kim e Trump, suona un po' come Rick e Gian, Matt e Jeff, no? Kim e Trump, solo che, cioè, è tutto vero, ragazzi, cioè, ma lo vedete Trump che twitta? Anche le pettinature, esatto, ma lo vedete Trump che twitta Pyongyang è in cerca di guai seri, amico? Cioè, come se fosse in un saloon nel 1870, dammi un whisky, Pyongyang qui vuole guai seri, e poi tira fuori la Colt, qui solo che il rischio, Luca, che schiaccia un bottone. E è tutto vero, cioè è tutto vero, lo so, non bisognerebbe ridere, e non si ride di queste cose, ma sembra quasi una, non lo so, Rick e Gian, Kim e Trump, solo che... Finché sono tweet possiamo anche ridere. Però ha spostato una contraeree, voglio dire. Lo so. Non è che sono... Lo so. Cioè, ci deve inquietare. Io so che voi ci avevate già detto che Trump dice non sottovalutatelo, non prendiamolo sotto gamba, guardate che... Paola, ti inquieta questo mondo? No, il problema non è Trump da solo, che può anche aver preso una decisione, diciamo, si è mosso un po' autonomamente. È proprio la coppia... è come tu metti un soggetto accanto all'altro, lì c'è un attimo di tensione, di paura, diciamola, di paura vera, perché auspichi che uno dei due sia più sensato dell'altro. E sinceramente mi sento di fare il tifo per Trump in questo momento. Sì, beh, certo, perché tra Trump e Kim Jong-un... Ma veramente di fare il tifo per Trump, perché sono sicura, insomma, che si farà ben consigliare, che arriverà ad una presa di posizione, non da bicchiere che poi scivola sul bancone e lui lo ferma con la mano, perché ecco, che ci sia una persona sensata tra le due. No, non lo so. Per fare Pasqua, per no, giusto per non citare sempre Mauro Corona, che era qua settimana scorsa, ha detto: c'ho quasi la sensazione che Trump giochi alla guerra. Vabbè, Mauro Corona è così, Luca, forse giocare proprio non è la parola giusta. Però la sensazione è che, non lo so, è successo qualcosa dall'America non interventista, l'America isolazionista, sì. Che poi un giorno dà un avvertimento alla Siria, adesso sembra mirare alla Corea del Nord, e poi non si sa. Sì, però andare il a problema rivedere... è che quando... Vai, Luca. No, che quando giochi è giocare con uno così, cioè... Kim basta guardarlo, cioè lo guardi nelle foto e già capisci che non è normale, quindi bravo, è diventato l'ombrosiano come Mauro Corona e come me anche Luca Dini, bravo. No, ma è vero, però, cioè, è uno che cos'è, fuma le sigarette negli asili nido, cioè non è la cosa più truce che ha fatto, però è singolare che ti sia venuta in mente questa No, mi fa impressione, perché credo che sia l'unico leader al mondo che si farebbe fotografare fumando sigarette in asilo nido. Questa mi era sfuggita, cioè mi ricordavo, che ne so, dei parenti fatti saltare a cannonate, ecco, questa, ma le sigarette fumate in asilo nido effettivamente sono anche più gravi in un certo senso, no? Le sigarette fumate in asilo, ma dove le hai viste queste? Sono arrivate a Vanity Fair le sigarette? Ma non, ci sono delle foto in giro di lui che fa una visita in un posto e fuma tranquillamente davanti ai bambini, e da lì hai capito che Kim Jong-un è un signore di cui non fidarsi tantissimo. Va bene, cara Paola, tu che sei in onda dalle 10 alle 12, non l'hai anche detto, su Sky come tutti i giorni, cosa bolle nella pentola della politica? Vabbè, l'hai visto questo gran casino anche qui, io non lo so cosa succederà, ma l'idea che ci sia un capitano dei carabinieri oggi, racconta Repubblica, che anche in un altro caso, in un processo contro il sindaco di un paese, non so se Ischia, avrebbe modificato delle intercettazioni in modo da modificarle, ecco, questo usiamo sempre il condizionale. Ma io non lo so, cioè siamo un paese. Lì è ancora tutto, chiaramente. Adesso pare facile dire così, è ancora tutto da capire, però veramente c'è ancora tutto da capire. Insomma, prima di diciamo così, di arrivare ad una conclusione, ci sarà molto da capire. Ecco, sarà da comprendere il perché sia potuto accadere una cosa del genere. Sì, se è accaduta, poi dopodiché. Certo, anche questo. È tutto così bizzarro. Adesso ci sono la lite tra le procure, perché chiaramente la procura di Napoli si fondava sul nucleo operativo ecologico, il NOE, quello di questo capitano. A Roma dicono adesso dobbiamo non si fidano più, dicono adesso, vista questa cosa, vogliamo rivedere tutti gli atti, tutte le intercettazioni dall'inizio alla fine. Vogliamo riconvocare i testi, vogliamo... Insomma, si riparte da zero. È tutto da rifare, su questo non ci sono dubbi. Adesso è tutto da rifare. È un po' un bizzarro e sarà un gran lavoro. Politicamente parlando è interessante, ma non è altra politica, è politica quella, la politica. Sì. Quello che sta accadendo a Padova, dove c'è questo professore che fa la sua lista e sta tra Lega e Dem e sta raccogliendo... Voti nel senso di attenzione, massima attenzione, quindi vedremo, i nuovi soggetti. E c'è Silvio che dà il biberon agli agnelli. E c'è Silvio, grandioso. Ma non sapevo di questa cosa di Paola Saluzzi, Luca, sapevi di questo? È un piacere silenzioso. Tu sapevi, vabbè, voi vi frequentate, vi conoscete, mannaggia. Niente. Per mia fortuna. Vabbè. No, lo immaginavo perché è più evoluta di noi, dai. Ecco. Che meraviglia! Direttore, ho fatto in tempo a tornare, siete la mia felicità. Va bene. Sappiate che siete la mia felicità. Però devo imparare sul pesce, per esempio. Perché allora uno mangia il pesce? Perché sfiletti il pranzino? Perché il branzino ti guarda con quegli occhi un po' meno teneri e dolci. Con la faccia da branzino, sì, lo so, lo so, migliorerò. Prometto che migliorerò. Bisognerebbe mangiare quelli un po' vecchi, diciamo. Ecco. Cos'è che l'agnellino giovane. Così. Magari un branzino, diciamo, che ha fatto una bella vita, ecco, diverso. Si potrebbe prima interrogarlo, chiedergli com'è andata branzino fino a qui. Ho un mio amico adorabile che quando mangia cane, ed è un piacere comunque vederlo, dice sì, ma era cattivo, aveva un cattivo carattere. quindi è giusto così. È bellissimo, aveva un cattivo carattere. Quindi insomma via, cerchiamo di essere più o meno rispettosi. Andiamo al traffico. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, per favore, il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta questa credine, questa cidia della Cassimatis verso Grillo è la conferma che Grillo aveva ragione. Mila, se è vero quello che dice la televisione, un carabiniere condannava il padre di Renzi e ora questo carabiniere se ne deve andare a casa. È tutta colpa della Brambilla, Milan, è la Brambilla. Quell'uomo lì lo sta completamente distruggendo mentalmente. È una fanatica sfegatata, è una integralista mostruosa. When you got a headache powder soothes the pain. You just lay and rest, feel alright again. Devo dire, caro amico Trump, fatelo un po' pure i cazzi tuoi, pure lì, parto lì, sono lì, e che cazzo, mica mi vuole bombardare a me. Razzi, nomen omen, Razzi. La verità è che dove va Razzi, Assad... Kim Jong-un, succedono casini. Ecco, forse potremmo anche... Oppure lui va dove non dovrebbe andare, soprattutto facendosi fare delle foto che non dovrebbe fare, tipo sorridente vicino ad Assad. Caro Luca, dove va Razzi, succedono casini, Questa... Ma anche lì scomoderei Lombroso. Lombroso, ecco, torniamo a Lombroso. Va bene, ragazzi. Adesso mi dovete aiutare. Io ho scritto anche ieri su Twitter, lo dico sempre, insomma, perché abbiamo il nostro direttore Luca Dini, il mercoledì quando esce Vanity Fair, anche qui guarda Vanity Fair con Pippa, so anch'io chi è, Pippa Middleton. Bene, vedi che stai migliorando. Che prende marito. Chi è il marito? Il marito non lo so, invece. Si sa chi è il marito, sì. Ma sì, no, è un finanziario. Un miliardario, che strano. Non, avrei pensato un operaio di Manchester, invece no, è un miliardario. No. Questo in copertina. Per oggi su Vanity Fair si parla anche di me, lo ammetto, si parla soprattutto di Francesca, mia moglie che è scomparsa 4 mesi fa. Io di questo, Luca, ti devo ringraziare, ma ti devo chiedere un supporto, dimmi tu. Ecco, mi fermo. No, sei stato bravo, è un'intervista bellissima, cosa devo dirti? È proprio bella e soprattutto devo dire che questo spazio che abbiamo, che hai aperto, cioè Wandy sono io, che è un sito ed è anche uno spazio sul sito di Vanity Fair, ha avuto una risposta pazzesca, è stato condiviso da il tuo post è stato condiviso da 500.000 persone. E abbiamo già ricevuto più di 10 email di persone resilienti, come dici tu. Ti cito soltanto Sandra, per esempio, che dice alla fine della sua mail, dice: alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te. Nessuno nasce forte, ma alcuni lo diventano perché bisogna precipitare per scoprirsi capaci di volare. Quindi beh, insomma, molto molto bello. No, io sono contento. Diciamo che su Vanity Fair, appunto, il blog che ha tenuto mia moglie per tanti anni, ringrazio Luca Dini, è diventato appunto questo spazio. Wandy sono io. Wandy, lo dico, si scrive con la W iniziale e la Y finale. Wandy, che era il soprannome di Francesca. Giusto. E tutto questo è diventato anche un'associazione culturale di cui sono il presidente, quasi arrossisco a dirlo, cara Paola, ma è così. Non pensavo di doverlo fare e soprattutto non avrei voluto farlo. E faremo, questo lo posso dire, un premio letterario dedicato a Francesca, il premio Wandy. Io dico solo che c'è anche un sito, se vorrete andare a vederlo, che è wandysonoio.org, è il sito dell'associazione culturale appunto che abbiamo fondato. Indovinate un po', cara Paola, chi ci sarà tra i giurati del premio Wandy? Due, per esempio, chi potrebbero essere? Allora, uno è sicuramente Luca Dini. Uno è Luca Dini, sì. Una, chi potrebbe essere? E un'altra è una persona molto fortunata e sono io. Ecco, a voler bene a te. A voler bene, e qui gli tolgo il titolo di direttore e lascio solo Luca, a Luca Dini, e soprattutto questo lo dico per tutte le persone che ci ascoltano, l'immensa fortuna è stata quella di conoscere Francesca, di incrociare i suoi occhi, di parlare, di sperare, di costruire con lei tutti i minuti che hanno costituito il nostro stare insieme. E come scrivi tu in questa intervista, che è bellissima, bellissima, sentirla, ovviamente mettendosi in coda rispetto ai sentimenti dei vostri bambini, ma sentirla sempre con noi, Francesca, portarla ovunque andiamo, portarla con noi, è quello che faccio io. Ed è quello per cui ti ringrazio di avermi messo all'interno di questo gruppo. Io davvero ringrazio voi. Tra l'altro ci sono dei nomi che voglio ringraziare, già confermati. Ci sarà Roberto Saviano nella giuria, ci sarà Ferruccio De Bortoli, ci sarà Chiara Gamberale, ci sarà Daria Bignardi, oltre ovviamente a Paola Saluzzi, Luca Dini, insomma al premio Wandy, spero e penso che faremo una gran bella cosa. Lo ridico, se volete, wandysonoio.org, andate lì a vedere. Voglio chiudere però con Bersani, ce la facciamo con Bersani? È la nostra nuova rubrica, le metafore di Bersani. Riesce bene a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Oggi non è una metafora, ma è questo che vi propongo. Monti più tre monti sono quattro monti e sono troppi. Che dal punto di vista matematico non fa una grinza, è perfetta. Ma cosa avrà voluto dire Luca? che sale addizioni, non lo so. No, devo dire questa mi è piaciuta. Non è male. Allora lasciamo così il mistero. Vi ringrazio perché devo chiudere. Paola Saluzzi alle 10 su Sky. Comprate Vanity Fair, oggi lo fate anche per me, per Luca, per Francesca, e vi ringrazio di questo e vi do un abbraccio. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica.